non una di meno. Voi baccagliate proprio bene, è un gusto, stavo a sentire. Io non strillo mai, non strillo. Voi strillate che la bellezza sulla carmessa del proprio dragoso. Voi ci mettete al sentimento, ma fate sentire peggio della tromba. Ci dovresti voi dedicare più. Vabbè sì, che con le chiacchiere dei giornali ci hanno fatto una testa così, ma ci hanno mai dato niente. Ve la siete cercata! Libere di scegliere, pronte a reagire. 28 settembre, ore 18, Piazza dell'Esquilino. Giornata mondiale per l'aborto libero e l'autodeterminazione delle donne. Torniamo in piazza perché rifiutiamo la violenza maschile e la sua strumentalizzazione razzista. Rifiutiamo di essere considerate inferiori, deboli, subalterne per natura. È questo che vogliono farci credere nelle corsie degli ospedali, quando schiere di obiettori ci impediscono di scegliere quando, come e se diventare madri. È questo che scontiamo, senza indipendenza economica, con i salari più bassi dei nostri colleghi, con le molestie sul lavoro, con la cura della famiglia sempre più sulle nostre spalle. È questo che fa della famiglia, della coppia, dei luoghi di lavoro i luoghi più pericolosi per le donne. Uno stupro è uno stupro e a stuprare sono gli uomini, al di là della loro nazionalità, provenienza e estrazione sociale. Giovedì 28 settembre, ore 18, Piazza dell'Esquilino, giornata mondiale per l'aborto libero e l'autodeterminazione. Non accettiamo il ricatto della paura, le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Non una di meno. Portate il mattarello.